24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8 e 19 minuti inizia la terza parte di 24 Mattino di questo martedì 23 giugno. Sembra quasi venerdì da come viene fuori. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia e Maria Latella. Ciao Maria, buongiorno. Ciao Simone, buongiorno, buongiorno a tutti. E cominciando la nostra brevissima rassegna tutto il mondo e il paese, per fortuna non tutto il mondo e il paese, guardando le prime pagine dei quotidiani britannici che devono interrogarsi sul perché quel giovane libico, che pure era stato in carcere, era ancora in circolazione con tutti i problemi psichici e di alcolismo che aveva e ha prodotto la tragica fine di tre uomini, ed è la notizia alla quale ovviamente viene dedicato più spazio. Mentre è interessante la scelta di Le Figaro. Le Figaro lancia un messaggio di ottimismo e dice che le imprese in Francia stanno riprendendo, sia pure lentamente, a marciare. Il quotidiano francese dedica tre pagine alla ripresa, raccontando che mentre la settimana scorsa il tasso di attività delle imprese industriali francesi era del 76%, è atteso che torni all'80% la settimana prossima, e dice che i consumi stanno riprendendo. E lancia anche un messaggio di ottimismo alla ripresa del turismo, perché la ristorazione francese dà segnali positivi. Tutto ciò ovviamente con una notizia che poi mette in basso. Invece Nokia va a sopprimere 1233 posti di lavoro in Francia. Anche da loro la soppressione di posti di lavoro comincia a farsi sentire, ma è interessante che la prima pagina del quotidiano francese sia ottimista, lanci un messaggio di speranza, e questo, come dire, va tenuto in buon conto nel giorno in cui il ministro dell'economia francese Bruno Le Maire va a trovare il suo omologo tedesco. Da tenere d'occhio sicuramente. E a proposito di speranza, noi siamo qua che speriamo, per Alex Zanardi, speriamo che vada tutto per il meglio, ed è questo l'argomento che affrontiamo in apertura, sicuramente con un occhio alle condizioni di Zanardi, ma soprattutto con un occhio a intorno a quello che, su cui si sta ragionando, ossia la sicurezza di manifestazioni di questo genere, insomma non necessariamente questa manifestazione, ma manifestazioni di questo genere, manifestazioni che spesso vediamo nelle nostre strade, sia che siamo dei ciclisti, sia che siamo degli automobilisti che se le trovano davanti. Roberto Sgalla è stato direttore del servizio di polizia stradale, adesso è responsabile della Commissione Nazionale Direttori di Corsa e Sicurezza di Federciclismo. Sgalla, buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno a voi. Eccoci. E a tutti gli ascoltatori. Maria, prego. Buongiorno Sgalla. Senta, buongiorno. Questa corsa, che era chiamata Obiettivo Tricolore ed era stata organizzata da Obiettivo 3, che è un'associazione sportiva legata proprio ad Alex Zanardi, con l'obiettivo di promuovere lo sport per disabili, sul sito dell'associazione viene descritta come una grande staffetta, un lungo e appassionante viaggio che vedrà 50 atleti paralimpici passarsi il testimone nelle varie zone. Come mai questa manifestazione, che abbiamo letto anche questa mattina sui quotidiani, era accompagnata da un servizio di vigili urbani, non aveva previsto che non dovessero passare degli altri mezzi in concomitanza, tantomeno dei camion? Com'è possibile? È possibile perché non è una gara, non è una corsa, è una pedalata, in questo caso a scopo benefico, scopo solidaristico. Ce ne fanno tantissimi in Italia, appunto per vari motivi, fondamentalmente per raccogliere risorse, per sensibilizzare su un tema. Il numero era veramente esiguo, si dovevano solo attenere al codice della strada, quindi come tutti i ciclisti in questo caso avevano delle handbike, ma l'handbike è equiparata a tutti gli effetti a una bicicletta, chiamiamola normale, e quindi potevano, dovevano assolutamente transitare liberamente, e la presenza di una macchina di vigili urbani che poteva indurre nell'errore di Pontedera una scorta l'ha chiarita molto bene il comandante di uno dei paesi che loro hanno attraversato. Era un gesto di attenzione, un gesto, come dire, un punto di partecipazione a questa staffetta, ma non una vera e propria scorta. Cose che invece sono previste, cioè aspetti che sono previsti in maniera molto chiara da due normative. Purtroppo è un tema un po' da, mi passo il termine, un po' da esperto, quindi io capisco che l'opinione pubblica, sì, la stessa autorità giudiziaria qualche volta non conosce fino in fondo. È disciplinato dal disciplinare sulle scorte tecniche, scusate il gioco di parole, e dal regolamento tecnico della federazione, che individua quando è gara e stabilisce, sì, cosa fare quando c'è la gara. Sì. Ascolti Sgalla, non è il caso secondo lei di provare ad immaginare che anche manifestazioni di questo tipo prevedano delle misure di sicurezza più strette? Io lo dico, io non sono un ciclista, lo dico da automobilista e penso di farmi interprete di tanti automobilisti che si trovano di fronte a manifestazioni amatoriali più o meno importanti. Questa sicuramente era importante con il suo intento solidaristico e tutto quello che vogliamo, c'era un grande personaggio come Alex Zanardi, ma ce ne sono anche tante altre piccole, no? Di fronte alle quali ci troviamo e non sappiamo mai come gestirla. Che dice? No, proprio il contrario. Se noi sottoponessimo tutte queste piccole manifestazioni, in questo caso diciamo la grandezza l'ha fatta assumere la presenza di un personaggio importante quale Alex, ma come lei diceva se ne fanno tantissimi, oserei dire, ogni fine settimana. Anch'io partecipo e pedalo tantissime volte, adesso questo periodo chiaramente è tutto sospeso, ma abbiamo avuto occasione di fare pedalate di questo tipo. Dicevo, se noi li obbligassimo a utilizzare gli stessi criteri che si utilizza per una gara vera e propria, renderemo difficile la circolazione, perché vorrebbe dire bloccarla, chiuderla per un certo periodo e quindi rendere ancora più difficile la vita agli altri utenti, la strada è di tutti. Mentre invece lasciare il transito libero, rispettando il codice, loro non era il primo giorno che facevano questa staffetta e tant'è che hanno continuato, proprio non è che hanno smesso di fare la staffetta, hanno continuato, perché diciamo, l'unico loro dovere, tra virgolette, è quello di rispettare il codice come lo rispettano tutti quelli che vanno sulla strada, stare sulla destra, non stare affiancati, fermarsi ai semafori, allo stop, non invadere la corsia opposta. Quindi ecco, distinguerei la fatalità, in questo caso veramente si può parlare di fatalità, io ho letto tantissime cose, perché quel camion era lì, perché girava tranquillamente, aveva il diritto di utilizzare la strada come tutti gli altri utenti utilizzavano la strada, compreso da una parte il gruppo di ciclisti di Zanardi e dall'altro questo camion. Quindi si sente di dire che è una fatalità, Sgalla? Adesso si potrà poi di accertare la dinamica, se Zanardi purtroppo ha commesso un errore invadendo, un guasto tecnico. Ho letto che i magistrati disporranno una perizia sull'handbike, chiaramente la verifica del manto stradale per vedere se era idoneo. Questi sono aspetti che attengono però alla dinamica del sinistro, si direbbe usando una terminologia stradale, quindi un aspetto della dinamica, e questo lo affronteranno i magistrati. L'altro è quello che si doveva fare per garantire questa pedalata solidaristica. Non doveva essere fatto nulla, veramente, se no il rischio è che ingessiamo e rendiamo impossibile tutto, perché per fare una gara occorrono fondamentalmente due cose: occorre un'autorizzazione che rilascia l'ente proprietario della strada e poi l'ordinanza del prefetto che sospende la circolazione, cioè non fa transitare altri veicoli per un determinato tempo in quella strada, creando chiaramente problemi di traffico a tutti gli altri. E questo si realizza quando appunto c'è una gara, c'è una competizione, c'è un'attività veramente agonistica. Senta Sgalla, non c'è dubbio che l'evento del quale stiamo parlando ha avuto l'effetto che sta avendo, ci fa riflettere su tutto, perché c'è Alex Zanardi, un personaggio assolutamente unico nel suo genere, un esempio per tanti tanti giovani. Io non so se lei l'abbia mai incontrato, io ho avuto la fortuna di fare un dibattito con lui e ho visto la reazione dei giovani. Secondo lei questo incidente che ha messo a rischio la vita, e speriamo che non sia così, di Alex Zanardi, che effetto avrà sulle gare? domanda a cui rispondo volentieri. Primo, io l'ho conosciuto, dicevate all'inizio presentandomi, io ho fatto il direttore della polizia stradale, poi il direttore di tutte le specialità, e con lui facevo proprio una campagna di sensibilizzazione contro quella che oggi purtroppo è una piaga, che è la distrazione a bordo dei veicoli. Sentiamo la gente quanto usa cellulari e altri device. E lui fu il nostro testimonial, testimone della polizia insieme alla BMW, su questa campagna sulla sicurezza stradale. Quindi, e poi l'ho incontrato nella mia attività di dirigente della Federazione Ciclistica. Quindi anch'io ho una stima immensa, dato e da un esempio a tutti, e mi unisco ai sentimenti di speranza, di solidarietà alla famiglia. Che cosa ci può insegnare questa triste vicenda, sperando attorno che si concluda nel miglior modo? Ci può insegnare due cose: che la strada comunque è insicura, e cioè la strada è veramente qualche volta pericolosa. Non dobbiamo avere sicuramente la fobia della strada, però dobbiamo essere sempre concentrati, essere sempre attenti, rispettare sempre le regole, questo in generale, al di là del fatto che c'è la magistratura, per tutti. Secondo, la distinzione tra gare e non gare, questa non era una gara, ma a maggior ragione là dove si fanno e dove si riprenderanno, si ha già le riprogrammate, la federazione sta lavorando per riprogrammare l'attività amatoriale, là dove si faranno le gare, queste dovranno essere ancora di più estremamente sicure. Perché non dimentichiamoci che noi oggi parliamo di queste cose perché abbiamo avuto un incidente una persona come Zanardi, ma in alcune gran fondo, l'ultima, quella della Versilia in Toscana, sono morte delle persone, cioè sono morte degli amatori mentre correvano. Quelle erano delle vere e proprie gare, e quelle gare vanno assolutamente rese ancora più sicure. Il Ministero dell'Interno, il Ministero dei Trasporti aveva proprio dal 1 gennaio approvato un nuovo disciplinare molto più stringente, è stato adesso rinviato al 2021 per noti motivi, ma credo che, ecco, queste due lezioni, una che vale per tutti, la strada va affrontata in sicurezza, e l'altra proprio invece per le competizioni, per le gare, non era ripeto, questa, è quella di rendere le gare un'attività assolutamente più sicura di quelle che oggi sono. Grazie Roberto Sgalla, già prefetto, ex direttore del servizio di polizia stradale e appunto ora responsabile della Commissione Nazionale Direttore di Corsa e Sicurezza di Federciclismo. Buona giornata Sgalla. Grazie, buona giornata. Adesso ci fermiamo e rimaniamo sulle nostre strade, o meglio sulle nostre autostrade, perché parliamo con l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, a partire dalle vicende liguri, i tanti problemi che stanno creando, tra l'altro stamattina anche con un incidente sulla 10, un camion in fiamme che crea ulteriore caos. A tra poco. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Mattino. Buongiorno a Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, in un'altra giornata di passione per le autostrade liguri. Ovviamente non parleremo solo di quello, parleremo anche di altro, come è naturale che sia, però intanto magari partiremo da là. Buongiorno Tomasi, benvenuto. Buongiorno a tutti voi, buongiorno anche ai teleascoltatori. Eccoci qua. Maria, vuoi iniziare tu? Prego, vai. Buongiorno, dottor Tomasi. Allora, dicevamo della difficoltà di viabilità sulle autostrade della Liguria, autostrade che sono ovviamente al centro dell'attenzione da quando tutti abbiamo cominciato a occuparci di quella viabilità dopo il crollo del ponte Morandi. Ci può fare una fotografia di quello che Autostrade per l'Italia ha fatto per quel tratto autostradale della Liguria e visto che Aspi e la sua controllata Atlantia, è notizia di oggi, aprono al governo e si dicono pronte a trattare anche oltre il 30 giugno, che cosa bolle in pentola? Allora, cerco di rispondere partendo ovviamente dagli utenti, perché anche questa mattina è una giornata di grande disagio nel nodo Ligure. Oggi abbiamo avuto un incendio sulla 10, su Albissola, sul bivio complanare di Savona, e quindi abbiamo il traffico bloccato. Ovviamente le scuse per questi disagi sono il primo punto di attenzione che ritengo necessario evidenziare in questo momento. Per andare a rispondere e quindi spiegare dopo il tragico evento del Morandi che cosa è successo all'interno dell'azienda e che cosa abbiamo cercato di fare, io partirei da quello che è stato fatto l'anno scorso. Anche l'anno scorso sono stati periodi complessi, difficili, quando abbiamo fatto le verifiche su tutti, abbiamo riverificato con società terze tutti i ponti viadotti. Credo che tutti gli utenti e gli ascoltatori ricorderanno che ci sono stati dei momenti, ma abbiamo, credo, agito con grande determinazione e con grande accuratezza, rendendoci conto che abbiamo comunque impattato sul traffico delle zone interessate. Quest'anno, dopo l'evento della Bertè, ricordo che il 30 di dicembre ci fu un evento importante su una galleria, sempre del nodo Ligure. Abbiamo rivisto i processi e gli standard di analisi all'interno delle gallerie e abbiamo definito insieme con il Ministero delle Infrastrutture a maggio un protocollo. Anche da questo punto di vista vorrei sottolineare che questo è il primo protocollo nazionale che viene definito per gli standard sulle gallerie, che non dovrebbe riguardare solo ASPI, ma riguarderà tutte le concessionarie e riguarderà anche le non concessionarie autostradali, perché tunnel e gallerie sono di gestione anche delle altre. Tomasi, mi scusi, ci vado giù un po' brutale, ma qua mi sembra che ci sia un grande tema di calendario di queste manutenzioni, e non è tanto il fatto di farle le manutenzioni sulle quali siamo tutti d'accordo, è un tema di calendario delle manutenzioni, cioè il fatto che si concentrino tutte in uno stesso momento fa sì che si generino cose di questo genere, problemi di questo genere. Allora, qui rispondo in due modi. Uno, forse un po' brutale, le manutenzioni e le ispezioni impattano, cioè pensare che quando si fanno manutenzioni su un nodo come quello genovese, forse una delle parti e delle reti più complesse del sistema del paese, si impatta, cioè pensare che le manutenzioni si possono sempre fare di notte o le ispezioni si possono sempre fare quando non c'è traffico, è una chimera che forse dobbiamo raccontarci, non è possibile. È corretta l'osservazione che dobbiamo cercare di compensare e di valutare qual è l'equilibrio migliore, quando farle e per impattare meno possibile il traffico. Io ricordo che nel periodo del lockdown noi non ci siamo mai fermati, abbiamo fatto più di 600 ispezioni quando non avevamo traffico sulla rete autostradale e abbiamo sostenuto tutte le attività di manutenzione che riuscivamo a sostenere. Ieri abbiamo fatto un incontro con il Ministero, con la Regione, proprio per cercare un compromesso che riesca a contemperare la necessità delle verifiche di sicurezza e dall'altra la sicurezza anche della viabilità. Diluirete le verifiche a questo punto, Tomasi? Stiamo valutando un piano in modo tale da completare almeno una serie di verifiche. Il 100% delle verifiche le completeremo comunque entro i prossimi giorni su tutte le gallerie. Siccome abbiamo previsto anche delle verifiche profonde, qui stiamo vedendo un piano più diluito rispetto a quello che avevamo ipotizzato. Questo vorrà dire che comunque, almeno nella prima settimana di luglio, ci aspettiamo ancora degli impatti sulla viabilità. Maria. Senta, veniamo alla questione che tiene banco ormai da anni, vale a dire il braccio di ferro tra Autostrade per l'Italia e il governo per quanto riguarda la concessione. Pochi giorni fa Atlantia ha inviato una lettera alla Commissione europea con la quale accusa il governo italiano di volerla forzare a vendere la sua quota in ASPI, venderla a CDP per un valore ridotto. E dunque, intanto le chiedo come sta andando questa interlocuzione con l'Europa E poi, dal momento che sembra quasi in atto, no, una danza tra voi e il governo, un po' di bastone, un po' di carota, lo stesso Conte ha detto che se arrivasse una proposta in extremis da Atlantia, dice il Premier, ci sarebbe l'obbligo di esaminarla. Lei è ottimista su una risoluzione della vicenda? Contate su un parere che arrivi dall'Europa e che influenzi le decisioni del governo? Beh, nel ruolo che ricopro non posso che essere, cercare di essere ottimista fino in ultima. Ricorderei però agli ascoltatori che noi è da luglio del 2019 che dialoghiamo col governo per cercare un componimento, quindi ormai siamo quasi a più di un anno di dialoghi, e che quando dichiariamo che sono state fatte diverse ipotesi di risoluzione, sono sempre ipotesi che nascono dal confronto, non è che sono ipotesi generate in una stanza separata. Ovviamente abbiamo messo in atto tutte quelle che sono le azioni di tutela, anche la lettera di ieri che dà l'apertura evidenzia anche quali sono le azioni di tutela che dobbiamo comunque, sia nei confronti dell'Europa sia nei confronti dei tribunali amministrativi che abbiamo attivato, per salvaguardare l'interesse dell'azienda. Anche da questo punto di vista però mi preme forse sottolineare un aspetto. Quando noi parliamo dell'azienda parliamo di un'entità complessa, parliamo di 7.000 dipendenti, parliamo di investimenti che poi vedremo, sono ad oggi abbiamo circa 7 miliardi di investimenti pronti a partire. Pronti a partire vuol dire con autorizzazioni già presenti, autorizzazioni ambientali, conferenze di servizi chiuse, progetti esecutivi approvati, vuol dire azionisti della società, parlo degli azionisti di minoranza, azionisti cinesi o azionisti di Silk Road o di Allianz, che quindi è un mondo complesso all'interno di una società controllata da Atlantia, che è una società quotata, quindi di un quadro di riferimento complesso e che credo che poi debba essere considerato un valore per il sistema paese. Lei è, sì, arrivato, lei è arrivato dopo e quindi può parlare anche, diciamo, con maggiore distacco. Quali errori sono stati compiuti dagli azionisti subito dopo il crollo del Ponte Morandi? Faccio due considerazioni. Una considerazione generale di sistema. Nel sistema quello che emerge dopo l'evento del Morandi è una non gestione del sistema o non corretta gestione del sistema infrastrutturale del paese. I sistemi infrastrutturali del paese hanno bisogno di prospettive di medio lungo termine, non possono essere gestiti su una prospettiva di brevissimo termine. Quando, non so se vi ricordate, le analisi costi-benefici che erano state avviate nel 2018, quando si chiude e arriviamo sulla Gronda di Genova, progetto vitale per lo sviluppo della regione, e si dice che è positiva ma che ha bisogno degli approfondimenti, questi approfondimenti alla fine hanno portato non altro che a dilazionare un progetto di altri 2 anni, tenga conto che il progetto oggi è depositata al Ministero da dicembre del 2018, progetto esecutivo con tutte le autorizzazioni attive. Questo che cosa vuol dire? E arrivo al primo errore, che per fare una pianificazione infrastrutturale ci vuole una pianificazione dello Stato e delle aziende che concorrono di medio e lungo termine. I progetti, una volta che vengono avviati, non possono essere ottimizzati, perché questa è una finta ottimizzazione che porta poi in realtà ad allungare i tempi di realizzazione, e i casi credo siano molti che possiamo portare sul tavolo, e non sono i commissari che risolvano questo tipo di problema, ma questo è un problema che riguarda la pianificazione del paese. Sull'evento del Ponte Morandi credo che l'errore che ci dobbiamo imputare, uso il plurale perché in questo caso mi sembrerebbe troppo comodo sempre scaricare solo sugli eventuali responsabili, è quello che in quei momenti bisogna avere la forza di guardare tutte le cose che non hanno funzionato all'interno dell'azienda e avere la capacità di cambiare da subito. Questo è l'evento e la cosa più A proposito di questo, Tomasi, possiamo dire che anche quello che vediamo intorno al nodo genovese in questi giorni sia il fatto che si scontano decenni, se non lustri o forse addirittura decenni di mancata manutenzione, tra l'altro in parte, Tomasi, anche certificata dalla Corte dei Conti? Direi di sì, più che mancata manutenzione della definizione di chiari standard di manutenzione per poter poi effettivamente avere un'evidenza anche di chi deve controllare di quello che deve essere fatto. Infrastrutture vecchie come sono le infrastrutture del nostro paese hanno bisogno, e da questo punto di vista dobbiamo riconoscere che nell'ultimo anno nella collaborazione con il Ministero abbiamo fatto grandissimi passi avanti. In questo caso oggi stiamo pianificando, quando noi dichiariamo che da oggi al 2023 andiamo ad aumentare le nostre spese di manutenzione di oltre 700 milioni di euro rispetto alla previsione, quindi siamo a circa 2 miliardi di euro, è l'effettiva capacità di pianificazione della società nel riuscire a fare questi piani. Quindi per rimanere al plurale, pur lei essendo arrivato da poco, avete nell'ultimo ventennio avete sbagliato qualcosa nella manutenzione, nella pianificazione della manutenzione? È mancata questa visione strategica della manutenzione, assolutamente sì, ma su questo ci sono bisogno di standard, di norme tecniche di riferimento, di impegni contrattuali chiari e definiti su queste attività. Quindi in qualche modo stiamo dicendo che gli impegni contrattuali... Prego. Certo. Tomasi, stiamo dicendo che gli impegni contrattuali negli ultimi 20 anni non sono stati così stretti, non hanno richiesto un impegno stringente alla società che ha avuto le concessioni? Diciamo che la mancanza di una chiara definizione di quelli che sono proprio la base, non essendo stata definita, non c'è stata la possibilità di definire un piano di manutenzione coerente con quello che era la necessità. Questa credo che sia l'evidenza dei fatti e di quello che sta capitando anche in queste ore nella rete. Noi oggi stiamo intervenendo una volta che abbiamo gli standard, e su questi standard ovviamente emergano le necessità manutentive che riteniamo che con il piano messo in atto siano funzionali a ripristinare le attività manutentive. Questo non vuol dire che poi dobbiamo investire, questo invece ci sta il piano dei 14 miliardi e mezzo sull'ammodernamento della rete, questo ha bisogno di un respiro di medio e lungo termine, quindi si parla di anni, e anche su questo è stato fatto un grandissimo lavoro di definizione di medio e lungo termine. Quando c'erano 14 miliardi e mezzo, sono 14 miliardi e mezzo di progetti e di iniziative che abbiamo consolidato in quest'anno di lavoro. Ieri il commissario alla ricostruzione del ponte, il sindaco Marco Bucci, ha sottolineato un fatto curioso. Ha detto, ieri è passata la prima auto, anche se poi la riapertura vera e propria del ponte dovrebbe essere il 1 agosto, ha detto non sappiamo a chi consegnarlo. Mi dica se ho capito bene, Tomasi. Prima di Ponte Morandi c'è un tratto gestito del ponte che si chiamerà forse San Giorgio, il nuovo ponte, c'è un tratto gestito da Autostrade per l'Italia, dopo il ponte c'è un tratto gestito da Autostrade per l'Italia, ma il ponte in forza del decreto Genova, quello varato dopo la tragedia, non è gestito da voi e non si sa chi lo gestirà. Allora, anche qui rimango ai fatti. Noi oggi il fatto che si riesca ad aprire il ponte alla fine di luglio, il primo agosto, lo riteniamo un fattore di assoluto valore per il paese e per la società. Noi abbiamo concorso, e anche questo credo che ce ne debba essere dato evidenza, abbiamo concorso con spendendo circa 600 milioni di euro con la disponibilità ad arrivare fino a 700 milioni di euro affinché questo potesse accadere. Io personalmente autorizzo i bonifici in modo tale da assicurarmi che a richiesta di fattura dopo 5 giorni venga fatto il bonifico, affinché non ci sia nessuna dubbio che la società voglia utilizzare l'apertura o la mancata apertura di quel ponte per un proprio interesse. Sì. Abbiamo anche scritto al Ministero. Però questo problema resta, no, perché qualcuno lo deve collaudare, no? Arrivo. Abbiamo scritto anche al Ministero e alla... ovviamente di concerto con il commissario Bucci, dove la collaborazione è stata sempre massima, proprio per definire le modalità di apertura di questo viadotto, e siamo confidenti, perché è nell'interesse del paese che questa soluzione venga definita a giorni. Sì, molto rapidamente. Senta, ma che cosa pensa della proposta del governatore della Liguria, Toti, secondo la quale il governo dovrebbe dare alla regione la concessione di quel tratto di autostrade? Capisco che siamo in un momento in cui queste possono essere delle ipotesi. Per gestire una concessione di questo tipo ci vogliono elevatissime competenze tecniche. Non ultimo, ricordo che la Gronda di Genova oggi è forse uno dei progetti più complessi di quelli che sono stati mai realizzati nel paese e forse verranno mai realizzati in Europa. Pensare che un'attività così venga gestita da una regione la vedo francamente difficile, magari politicamente spendibile, però tecnicamente direi quasi impossibile. Abbiamo veramente 30 secondi. Domanda, c'è chi dice, qualche ascoltatore solleva il sospetto e ci dice, hanno ricominciato con le manutenzioni nel momento nel quale sono emerse le intercettazioni e le inchieste giudiziarie. Cosa risponde Tommasi? Direi, guardi, questo lo dico con grande determinazione, no, noi nel 2019, quindi nell'anno successivo, abbiamo aumentato le nostre manutenzioni di circa il 30%, quindi normalmente, per dare un ordine di grandezza, sono circa 100 milioni di euro, e abbiamo poi nel 2020, quest'anno arriveremo a circa 500 milioni di euro. Per poter sostenere spese così ingenti non ci si attiva dall'oggi al domani, ci sono gare che vengono lanciate, appalti che vengono fatti, progetti che vengono sviluppati, quindi non è stato quello l'elemento. Non è stata quella la leva. È stato un elemento che ci ha fatto ancora di più a ripensare alla necessità della trasformazione dell'azienda. Sono eventi che comunque colpiscano le aziende, e su questo abbiamo pensato di reagire con grande determinazione. Grazie Roberto Tommasi, amministratore grazie delegato di Autostrade per l'Italia. Grazie, buona grazie giornata. Ascoltatori, arrivederci, grazie. Buona giornata, cara Maria, domani alle 8:20. A domani, ciao. Simone, ciao a tutti. Carmelo Lauricella, regia, Danilo Di Trani, Gloria Guerrero, Alessandro Marco Tulli, Margherita Inia, Francesco Ceraffo, i nostri autori. A domani, ciao.